Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro che ha un doppio titolo, un titolo che lascia intravedere qualcosa e un titolo molto più esplicito. Il primo è L'eleganza dell'Okapi, il secondo è Confessioni di un manager. L'autore è Denis Delespaul. Buonasera Delespaul. Buonasera. Denis Delespaul è presidente di BNP Paribas Leasing Solutions, è in Italia da 20-25 anni e ha condotto, appunto, ha fatto crescere questa azienda e a questo punto è stato per anni amministratore delegato, ha deciso di mettere su carta un po' la sua esperienza di vita da una parte, la sua esperienza professionale dall'altra, e quindi queste Confessioni di un manager, edito da Guerini Next. Però questo titolo, L'eleganza dell'Okapi, come nasce, dottor Delespaul? No, il nome l'Okapi è, per alcun auditore non lo sanno, ma è un animale che è in via di estinzione, vive in Congo, è un animale molto strano perché è una metà zebra, metà giraffa, è un animale estremamente solitario, e la solitudine è un elemento chiave del mio percorso di amministratore delegato per un quarto di secolo e mi è anche spiegato nel mio libro. Quindi la solitudine, ma non la solitudine impostata, la solitudine, diciamo, tra virgolette cattiva, ma quella positiva, quel che fanno che siamo con noi stessi a prendere una serie di decisioni, questo è un elemento molto comune di un leader o dei manager. Questa è stata l'idea dell'Okapi. Ecco, è proprio la solitudine, è il primo capitolo di questo libro, una solitudine in cui lei fa un po' il paragone tra il dirigere un'impresa, tra il guidare un'impresa e la camminata, la conquista di una montagna. Bisogna impegnarsi, bisogna essere costanti, bisogna avere un obiettivo, una meta, bisogna anche avere dei compagni probabilmente, anche se poi ognuno deve fare la propria parte. Quindi una delle sue passioni è la montagna. Questa coincidenza, diciamo, questa visione comune tra l'impegno professionale e l'impegno montano dice molto sul fatto che nell'ambito, appunto, di un'impresa di una società, un manager deve avere un obiettivo ben preciso. Un obiettivo ben preciso e soprattutto confrontare con se stesso. Quindi la montagna, ovviamente, in particolare lo sci alpinismo, che è una passione, quando ci ritroviamo da solo, quando mi ritrovo da solo e nessuno ti guarda, le occhi dell'altro non sono qui per giudicarti e non hai bisogno di questo, allora ci ritroviamo confrontato a noi stessi e questo è molto importante nelle decisioni che dobbiamo prendere, nella nostra conoscenza di noi stessi, ma ovviamente al servizio dell'altro, al servizio dell'azienda, al servizio dei collaboratori. Questo è un elemento estremamente importante nella mia vita a titolo personale, lo credo per tante altre leader. Lei racconta molte vicende legate appunto al suo arrivo in Italia, anche precedenti, molto curiose anche, non abbiamo tempo di approfondirle, creiamo un po' di curiosità a chi vuole leggere questo libro, però ecco, andiamo quando è arrivato in Italia, aveva un progetto da compiere, si è trovato, come dice appunto, anche solo di fronte a questo progetto. Quali sono state le difficoltà maggiori in una realtà come quella italiana? Quali diversità ci sono tra la realtà italiana e quella francese a cui lei era abituato, in cui lei aveva iniziato appunto a lavorare? Creare un'azienda come avere una sfida di raggiungere una vetta è fatta di tanti ostacoli, tanti problemi da risolvere, però sopra di questo c'è la missione, c'è il desiderio, c'è il fatto di essere nell'azione che supera il tutto, che supera la stanchezza quando si parla di montagna, la stanchezza, il freddo o eventualmente la paura. Per creare un'azienda è un po' la stessa cosa, però quando siamo talmente proiettato verso il futuro, allora io direi che questo è secondario. E io avevo questa passione di creare questa azienda che mi aveva portato un gruppo bancario francese in Italia, e devo dire che tante francesi amano l'Italia e quindi non scappa a questa eccezione. Quindi io amo l'Italia e mi sono trovato molto bene, perché la cultura francese e la cultura italiana sono due culture che, quando prendiamo il meglio dell'uno e dell'altro, è un cocktail assolutamente straordinario, è un cocktail vincente. Le pragmatismo dell'italiana, la reattività, la concretezza non sono dei luoghi comuni, se una realtà. Dall'altra parte, l'aspetto francese di concettualizzare, di fare delle previsioni, di essere su quell'aspetto, diciamo, verso il futuro. Ovvio, queste due è un cocktail, lo ripeto, un cocktail veramente vicente, e questo l'ho vissuto in prima persona per questo quarto di secolo, e abbiamo adesso una società di leasing che è la prima società di leasing in Italia, quindi questo è veramente un enorme piacere che ho avuto in questo paese. Venuto per 2 anni e sono 25 anni, quindi ecco, immaginate bene. In questa prospettiva, una realtà fondamentale, una missione fondamentale è quella di valorizzare le persone, all'interno di un'impresa, quella di sollecitare più la responsabilità che il rispetto di certe procedure. Lei che approccio da manager ha avuto in questi anni verso appunto la realtà aziendale, che richiede, lei parla esplicitamente di change management, richiede continui cambiamenti. Ecco, qual è stato l'approccio di fondo del suo essere manager francese in Italia? Perché io penso che fondamentalmente un leader è al servizio del collaboratore e non il contrario. E l'ho sempre pensato. Anche se siamo in un mondo d'azienda di command control, vale a dire d'azienda che il manager dice come fare le cose ai suoi collaboratori, e dobbiamo passare di cambiare, perché stiamo cambiando di paradigma, nel senso che adesso dobbiamo passare dall'azienda del come all'azienda del perché. Perché un collaboratore deve fare questo, e questo è il ruolo nuovo del manager: non spiegare come fare le cose, ma perché le deve fare. Questo per me è non solo, è un movimento mondiale che si sta creando. Alcune aziende, grandissime aziende, si sono lanciate a questa evoluzione culturale all'interno delle aziende, che devono comportare a fare che i nostri collaboratori sono più protagonisti, sono più in prima fila, e le consideriamo più di questo modo. Quindi il leader, il famoso, scusate, in italiano, il famoso dottore, no? che alla fine sempre i collaboratori sono al suo servizio, deve cambiare, deve diventare un coach, un leadership, un servant leadership verso i collaboratori, perché le generazioni oggi lo vedono di un modo molto diverso. Le nuove generazioni vogliono subito avere della responsabilità. Sono meno fedeli che prima, quindi cambiano moltissimo le aziende. Oggi vogliono fare delle start-up, vogliono fare altri tipi di job che entrare nella banca o nell'assicurazione. Quindi noi nel mondo finanziario, nel mondo delle banche, dobbiamo attirare questi talenti con un modo di comportarci diverso. Questo è fondamentale. Ecco, un punto fondamentale, un punto importante del suo libro, verso la conclusione, è stato l'incontro con la comunità di San Patrignano. Tra l'altro, i diritti d'autore che saranno ricavati da questo libro saranno devoluti a San Patrignano. E quindi, come mai questo incontro con una realtà molto diversa da una realtà aziendale è stato importante per lei, Presidente? Allora, il mondo per me è una scoperta personale. Ringrazio tantissimo la dottoressa Moratti, Letizia Moratti, che è cofondatrice di questa comunità straordinaria. Pensate bene, sono 1300 giovani tossicodipendenti, da 13-14 anni, che hanno vissuto una vita terribile, e se sono qui su un percorso dove devo ritrovare dignità, e lo ritrovano. La comunità di San Patrignano mi ha colpito per il valore profondo d'umanità, di sostegno, di solidarietà incredibile, che tutto sommato, in un certo senso, un'azienda, senza fare ovviamente un paragone del perché, ma sui valori, possono essere assolutamente paragonabili. Mi ha colpito come questi ragazzi, perché si chiamano così a Sampa, i ragazzi, come escono rinforzato, strutturato, responsabile. Pensate bene, il 77% di questi ragazzi che entrano ritrovano una vita, diciamo, normale, quindi una cosa veramente eccezionale. E quindi questo valore profondo con questa solidarietà è un esempio che possiamo portare in azienda, il modo in cui loro si gestiscono la loro comunità. Ecco, quindi questa è un esempio appunto di una volontà di essere responsabili, di cercare nelle persone la responsabilità. Per concludere, Presidente dell'Espol, possiamo dire che la sua esperienza italiana, per questi sono i primi 25 anni, l'attenzione di restare qui a lungo, l'Italia in fondo le piace. Tante altre 25 anni sicuramente. Grazie mille, grazie al Presidente, a Denis Dell'Espo, Presidente di BNP Paribas Leasing Solution. Abbiamo parlato del suo libro L'eleganza dell'OKP, Confessioni di un manager, un libro che sono tante cose, c'è l'azienda, c'è un'esperienza che è molto varia, si parla di filosofia, si parla di musica, si parla di spettacoli, si parla di montagna, si parla anche molto di management. In questo libro, i cui diritti, come dicevo, saranno devolute alla comunità di San Patrignano, è edito da Guerini Next, sono 144 pagine per 14 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie ad Andrea Roccabella in regia e a Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.